Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un giovane cantautore italiano. Il vuoto di questo tempo in questo corpo prende posto, si accomoda nel mio stomaco senza permesso. È nato a Comacchio nel 1985. Inizia da bambino a studiare pianoforte al Conservatorio di Ferrara. Pubblica il suo primo disco nel 2007, Mala Tempora. Si iscrive e vince il Festival di San Marino. Inizia a collaborare con la Warner Music. Nel 2007 viene notato dal Club Tenco e inserito come nuova proposta emergente dell'anno. Nel 2008 la critica lo annovera nella cinquina in concorso al Tenco per la miglior opera prima. Nel giugno 2010 le sue canzoni arrivano alle orecchie di Claudio Maioli, manager di Luciano Ligabue, che gli propone di aprire i concerti del rocker emiliano allo stadio di San Siro all'Olimpico. Nell'estate 2011 il singolo Crisi rientra nella top 100 dei brani più trasmessi dalle radio. Nel 2012 il secondo album Ci voglio ridere su, con il duetto Io sono io e tu sei tu con Lucio Dalla. Nel 2013 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Le parole. Nel 2014 l'album Si narra di rane che hanno visto il mare. Nel 2015 apre i concerti di Francesco De Gregori. Nel 2016 il nuovo album di inediti Noi siamo la scelta. Lui è Paolo Simoni. Più che politico è un grido disperato di una generazione che sta lanciando dei segnali che sono quelli dei 30 anni. È un disco che parla della mia generazione. Questo è un disco che volevo sentire, ecco, l'ho fatto perché volevo sentire questo tipo di canzoni, volevo sentire questo tipo di tematiche. E Noi siamo la scelta è proprio l'invito a riprenderci un po' quello che ci spetta, quello che è nostro. Insomma, noi siamo la generazione di quelli dei voucher, delle aspettative, di chi parte. Questo è un disco per chi è rimasto. Tipo me, qualche anno fa anche a me venne in mente, mi balzò l'idea di andarmene. Poi ho detto, sai che faccio? Rimango e scrivo questo disco. Ed è un disco che parla della mia generazione, ma non solo, perché anche quelle che arrivano dopo non sono messe tanto meglio, ecco. Però il titolo Noi siamo la scelta fa capire che la tua generazione ha delle possibilità e soprattutto tu la investi di un ruolo. Assolutamente, è un disco di speranza, per quello l'ho fatto. Se dovevo fare un disco solamente per denunciare tutto quello che non andava bene, non l'avrei mai fatto. È un disco di speranza, Noi siamo la scelta, è l'invito proprio dietro a questo grido a prendere in mano la situazione. C'è un brano nel disco che si chiama Una reazione e che parla proprio esattamente di questo. E l'invito proprio che faccio, che poi parliamo di generazioni ma parliamo di singoli individui, perché io intendo generazione, quella dei 30 anni è l'ultima post digitale, abbiamo avuto l'ingresso proprio nella digitalizzazione, siamo l'ultima generazione, quindi abbiamo proprio nell'adolescenza, abbiamo avuto il passaggio, l'entrata di internet, dalla cassetta siamo passati al CD, quindi c'è stato quel passaggio lì che è stato abbastanza da una parte traumatico e felice dall'altra. E dall'altra però c'è questa cosa che siamo venuti fuori da un ventennio che oggi ce la fa pagare questa cosa, perché siamo la generazione senza pensioni, quelli che non hanno il lavoro, quelli che ce l'hanno non è il lavoro che uguaglia la laurea spesso che hanno, si è attaccata nella propria camera. Quindi Noi siamo la scelta è un invito proprio a reagire, però credo che serva una rivoluzione poetica per salvarsi. Non serve una rivoluzione politica, non serve, secondo me, si vede quello che sta succedendo, politici parlano, ma poi i dati di fatto nella quotidianità sono diversi. Una rivoluzione poetica che parte dai giovani, che parte dalle idee, dall'arte, da una nuova cultura, di chi sa, di chi si mette in discussione partendo proprio da questi concetti, ecco. E di colpo, avere 30 anni, sentirne il morso sul culo e convincerti che sei uno dei tanti di quella generazione, cresciuta dalla televisione, figlia di un ventennio di ruberie sotto il sole. E di colpo, 4 case in 2 anni, traslochi e scatoloni di ricordi troppo pesanti, ad inseguire un sogno o a limitare i danni. Siamo stati bravi, amore mio, a guardare avanti. E di colpo, salutare gli amici che vivono all'estero e dicono di essere più felici. E forse lo sono, o è solo un modo dei tanti di nascondere il sangue, il dolore e i pugni nei denti. Io non mi privo del tempo che vivo, lo scruto, lo mangio, lo cerco, lo sbaglio, lo porto con me. Io non mi privo e manifesto. Amico, fai presto che il nostro futuro ce lo portano via. E di colpo il politico. Sei molto critico nel vuoto di questo tempo nei confronti di televisione, di giornali, oltre che della politica. Sei sfiduciato, cioè come se i mezzi che appartenessero alle generazioni precedenti non fossero attendibili. Non è il mezzo in sé, perché il mezzo in sé va benissimo. La TV, la radio sono cose molto belle. Il problema è quello che sono diventate la maggior parte dei programmi televisivi, la maggior parte delle trasmissioni. Le trovo di una noia mortale, cioè proprio da alcune. Dall'altra le trovo proprio di un'invadenza, cioè quello che denuncio in quella canzone è proprio questa mancanza di verità, ecco. C'è una mancanza di verità, ci sono queste trasmissioni televisive in cui c'è il pubblico preparato, li invitano ad applaudire, si applaude perché uno lo dice, si invita un politico e un altro apposta perché c'è da fare il teatrino. Tutto questo ci sta bene fino a un certo punto, ma come generazione, come in generale, ma anche come individuo a questo punto, io personalmente incomincio a essere un po' stanchino. Saranno i 30 anni, non lo so, però trovo che ci sia un po' di incongruenza tra quello che è la vita reale della strada, cioè del ragazzo che adesso è passato lì dietro al tram e va a prendere un caffè al bar, e quello che certi politici dicono alla TV. Dentro di me c'è il vigliacco e c'è il poeta, dentro di me c'è una favola infinita, dentro di me c'è la bellezza e il casino, intorno a me sono le 5 del mattino. Dentro di me c'è un'aquila che vola, se non le menti le si ferma e ti sfiora. Dentro di me c'è sempre quel bambino che non ho tradito, che non mi ha mai tradito. Dentro di me ci sono anche i sentimenti, il sentimento dell'amore, il sentimento la reazione a un lutto, a un abbandono, sì. Quindi non è solo un album tra virgolette militante. No, ma anche i temi quelli un po' più duri, chiamiamoli così, sono comunque figli di un sentimento. La rabbia giovanile è un sentimento molto importante. E c'è una frase di Gaber di una canzone che diceva: non vedo più nessuno che si incazza tra tutti gli assuefatti della nuova razza. Quando ascoltai quel pezzo dico: io non voglio essere un assuefatto, io voglio essere uno che reagisce alla propria contemporaneità. Quindi anche la risposta alla rabbia giovanile è una cosa di sentimento, è un senso di voler appartenere a qualcosa, esserci dentro. Quindi è tutto un disco di sentimenti. Poi ci sono due pezzi, anzi tre. C'è Julie, che l'hai citato tu prima, una persona che mi ha un po' formato nella mia adolescenza, era un artista, la considero uno degli eroi della mia vita. Da qualche parte, poco tempo fa, ho letto che i 30 anni sono l'età in cui si lasciano i propri maestri, metaforicamente, perché uno ha imparato, ha preso, poi va avanti da solo. Qui è successo che poi lei proprio se n'è andata anche proprio fisicamente, quindi a maggior ragione ha lasciato questo taglio, no? Questo segno. Poi ci ho conosciuto l'amore, che è sempre un trentenne che osserva, è partito seduto, stando seduto su una panchina, infatti incomincia proprio così il pezzo, no? Osservando la persona, le persone, ma soprattutto cercando di captare quell'amore che ti arriva, che magari non è un amore diretto, non è una persona che ti dice io ti voglio bene, ma lo capisci da quello che gli altri ti insegnano. Quindi è tutto un disco di sentimenti, ecco. Ho conosciuto l'amore seduto su una panchina, una coppia di vecchi davanti ad una vetrina. Lui le prende la mano, cara, cosa ti preparo stasera? Ho conosciuto l'amore, l'ho visto bene in azione, negli occhi di certe donne, dentro sale d'attesa. L'ho visto nelle mani di chi mi ha cresciuto, negli occhi di lei, la prima volta che l'ho vista. Ho conosciuto l'amore nell'abbracciare un amico che non vedevo da tempo. L'ho visto fare pace col dolore, l'ho visto ripartire col primo vento. Cosa pensi che ti possa portare a questo punto della tua vita, della tua carriera? Questa è una domanda interna a lotta, perché questo è un lavoro che non si sa mai. Ripeto lavoro perché è diventato un lavoro praticamente. Quello che il mio sogno è chiaramente di continuare a fare il musicista, perché faccio questa cosa, questo lavoro, questa passione da quando ero molto piccolo. Quindi scrivere, fare musica, se non avessi questo probabilmente cadrei in una depressione cosmica senza precedenti, perché proprio mi dà la linfa per vivere. Di questo disco mi auguro che arrivi a quelli, ai ragazzi di 30 anni che oggi sono in Italia, che probabilmente stanno ascoltando questa intervista, e dargli un messaggio e dire che non siamo soli, non sono soli, c'è un disco che li racconta, c'è un disco che parla di loro. Questo è quello che auguro a questo nuovo prodottino qui di... Hai aperto dei concerti importanti, l'avevi fatto già con Luciano Ligabue, col quale hai delle vicinanze molto forti, sì. Però hai incontrato anche altri maestri in questo periodo, possiamo dire così. Che cosa ti ha dato questa cosa? Mi ha fatto vedere da vicino quello che sempre sognavo da ragazzo, cioè il fatto che nella mia stanzina a 15, 16, 17 anni sognavo di scrivere, di diventare un cantautore, il fatto di aver conosciuto fisicamente i cantautori che ascoltavo col CD nella mia cameretta mi ha concretizzato il sogno, che è la cosa più bella che può capitare. Cioè tu hai un'idea, hai un qualcosa, un'idea in mente, questa cosa si concretizza, no? È fantastico. Gli ultimi concerti sono stati quelli di De Gregori e è stato fantastico. Tra l'altro ero da solo senza band, piano e voce. Ci fu al palo all'Automatica, una cosa la ricorderò a vita, perché Francesco mi ha fatto cantare 10 minuti prima proprio di lui. Erano le 9:10. Spensero le luci al palo all'Automatica, chiaramente la gente incominciò ad accogliere con grande calore quello che pensavano entrasse De Gregori. Si accende un faro e vedono me, qui ci fu un silenzio, questi 5 secondi che veramente sono incredibili, perché tu dici vabbè, adesso devo spiegare che questo momento di piccolo, di grande, piccolo grande imbarazzo. E mi presentai, ci fu questo silenzio, feci la prima canzone e dopo la prima canzone il pubblico mi manifestò un tramite un grido unico. A quel punto mi avrebbe da esprimere, da dire un senso di calore che non me lo dimenticherò più. E mi ricordo che c'era De Gregori lì dietro, che prima di salire mi diede 2 pacche sulla spalla e dice: vai, hai voluto la bicicletta, adesso vai. E è successo anche ad Assago a Milano. Sono stati 2 momenti molto importanti, insomma. De Gregori è sempre stato uno dei miei miti musicali, ecco. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Insieme a noi c'era Paolo Simoni. Ancora un saluto da Marta Cagnola.